ti guardo non so cosa dire. A volte penso solamente che tutte le cose belle hanno una fine. L'unica eccezione siamo io e te. Se tu fossi un errore sbaglierei. Se fossi una canzone ti canterei. Non mi basta toccarti sul display, manda la posizione dove sei. E mentre aspetto il treno penso perché hai scelto proprio me. Non ci credo ancora, non ci credo. E mentre aspetto il treno penso perché hai scelto proprio me. Non ci credo ancora, non ci credo. Siamo solo io e te, solo te e me. Dall'inizio soli contro il mondo. E non me ne frega se parlano di te. Solo io ti conosco in fondo. E ti raggiungerò anche giù all'inferno. In mezzo a una tempesta dentro ad un incendio. Solo io e te, solo te e me. Ormai, ormai. Chi se ne frega se parlano di te. Chi se ne frega pure del tuo ex. Usciamo a cena e poi sali da me. Insieme siamo i nuovi Barbie e Ken. Mi basta un'ora, solo un'ora con te. Per farmi stare meglio le altre 23. E alla fine ho scoperto che adesso non c'è niente di peggio di perdere te. E mentre aspetto il treno penso perché hai scelto proprio me. Non ci credo ancora, non ci credo. E mentre aspetto il treno penso perché hai scelto proprio me. Non ci credo ancora, non ci credo. Siamo solo io e te, solo te e me. Dall'inizio soli contro il mondo. E non me ne frega se parlano di te. Solo io ti conosco in fondo. E ti raggiungerei anche giù all'inferno. In mezzo a una tempesta dentro ad un incendio. Solo io e te, solo te e me. Ormai, ormai. E mentre arrivo in treno penso perché hai scelto proprio me. Non ci credo ancora, non ci credo. Siamo solo io e te.